Ad alta voce, Elia Shilton legge I miei premi, di Thomas Bernard. Traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. Quinta puntata. Il premio Julius Campe. Nel 1964 il premio Julius Campe, che la casa editrice amburghese Hoffmann und Campe aveva istituito in memoria dell'editore di Heine, Julius Campe, fu diviso in tre e il suo ammontare, 15.000 marchi, andò a Gisela Elsner, Hubert Fichte e me. Era la prima volta che ricevevo un riconoscimento per un'opera letteraria e sopra ogni altra cosa mi entusiasmava il fatto che il riconoscimento provenisse da Amburgo e fosse indissolubilmente legato al primo editore di Heinrich Heine. Julius Campe fu infatti il primo editore del Viaggio nello Harz e di una serie di poesie tra le più belle che mai poeta tedesco abbia scritto. Julius Campe naturalmente non era per me uno sconosciuto, avevo letto la biografia di Brinitzer. In verità, il premio Julius Campe 1964 non era stato affatto assegnato, perché la giuria non era riuscita ad accordarsi su uno scrittore da premiare e le tre parti uguali in cui era stato diviso l'ammontare del premio figuravano quali cosiddette borse di studio. Questo, tuttavia, non mi impedì, dal preciso istante in cui mi fu annunciata quella borsa di studio, di pensare e dire in ogni occasione che avevo vinto il premio Julius Campe. Ero molto orgoglioso e probabilmente fu l'unica volta che, senza il minimo imbarazzo, mi rallegrai dal profondo del cuore per un riconoscimento. Ero felice di quella notizia da Amburgo e cercai di diffonderla ovunque il più in fretta possibile. Vivevo a Vienna da mia zia e andai in giro per l'intero primo distretto, per il Graben, la Kernstrasse, il Kohlmarkt e il Volksgarten, pensando che tutti coloro che incrociavo sapessero della mia felicità, sapessero che avevo vinto il premio Julius Campe. Quando mi sedevo in un caffè, dal momento in cui potei considerarmi vincitore del premio Julius Campe, avevo rispetto a prima un aspetto diverso di sedermi al tavolo, un modo diverso di ordinare il caffè e un modo diverso di tenere in mano i giornali. E in segreto mi stupivo che la gente non mi fermasse in strada per parlarmi dell'evento. Anche chi non mi faceva domande veniva informato che avevo appena vinto il premio Julius Campe. Gli spiegavo chi fosse Julius Campe, cosa che a Vienna nessuno sapeva, e chi fosse Heinrich Heine, giacché a Vienna molti non sapevano neppure questo, e quale importanza avesse lo straordinario riconoscimento. Era un onore immenso, dicevo, ricevere un premio legato al nome di Heinrich Heine e che per giunta proveniva da Amburgo, la città da me allora più amata e poi sempre rimasta una delle mie città preferite. Ancora oggi non conosco in Germania un'altra città in cui possa aggirarmi con altrettanta spensierata e felice naturalezza e in cui potrei davvero vivere per lungo tempo e chissà, forse perfino per molti anni. Ad Amburgo c'ero capitato molto presto e forse devo al fatto di aver trascorso il primo anno di vita su un motopeschereccio nel porto di Rotterdam, se Amburgo fu per me esattamente ciò che nel linguaggio popolare si chiama amore al primo sguardo. Spesso, quasi tutti gli anni, sono stato ospite in una casa di mattoni a vista a Wellingsbüttel, non lontano dal punto in cui nasce l'Alster, e inoltre rispetto e amo gli amburghesi. Già il modo in cui mi fu assegnata la mia parte del premio Julius Campe posso definirlo il più simpatico di tutti. In due o tre frasi mi si comunicava che ero stato prescelto per una delle tre parti in cui era stato diviso il premio e che potevo ritirare la somma di 15.000 marchi quando volessi. Era a mia disposizione presso la casa editrice Hoffmann und Campe in Harvesterhude Weg. Non ci sarebbe stata nessuna cerimonia, nessun festeggiamento. Avevo dunque in effetti una buona occasione per andare di nuovo ad Amburgo. Un giorno alla stazione Ovest, salì su un treno diretto a Copenaghen e in uno scompartimento che mi parve il più adatto allo scopo, mi allungai ben bene con l'intenzione di dormire. Ma di addormentarmi naturalmente non se ne parlò neppure. Che l'eccitazione per il primo riconoscimento ottenuto con un'opera letteraria, con gelo, era troppo grande. Da Amburgo, il premio mi è arrivato da Amburgo, continuavo a ripetermi, e in segreto disprezzavo gli austriaci, che fino allora non mi avevano mai mostrato neanche un'ombra di apprezzamento. Dal mare del nord era giunta la presa d'atto, dalla Binnenalster. Ora Amburgo era per me non solo la più bella fra tutte le grandi città, ma anche la vetta della chiaroveggenza, per non parlare dello straordinario cosmopolitismo che da sempre la contraddistingue. Ad Amburgo quelli della Hoffmann und Campe mi avevano riservato una grande stanza in una vecchia villa sulla Binnenalster, dove mi feci portare da un taxi. Avevo appena messo piede nella camera e già si fece vivo un giornale che voleva intervistarmi. Mi sprofondai in una poltrona e acconsentii, tirai fuori dalla valigia le mie poche cose ed ecco che suonarono alla porta e gli inviati del giornale erano già lì con la matita in mano. Era la prima intervista della mia vita. Probabile che l'abbia fatta con lo Hamburger Abendblatt, chissà. Ero così agitato che non riuscivo a concludere neppure una frase. Per tutte le domande avevo subito una risposta, certo, ma non ero soddisfatto della mia capacità di formularla. Pensai, questa gente ora si accorge che tu vieni dall'Austria. La mattina dopo vidi la mia fotografia sul giornale e, anziché rallegrarmene vivamente come mi aspettavo, mi vergognai delle sciocchezze che avevo raccontato agli invitati del giornale e trovai abominevole la mia fotografia. Se davvero sono come in questa foto, ho pensato, sarebbe meglio ritirarmi per sempre in una buia gola di montagna e non rimettere mai più piede nel mondo. Me ne stavo seduto lì, a spalmarmi uno spesso strato di marmellata d'arance sul pane della prima colazione ed ero profondamente ferito. Non osavo neppure aprire le tende e trascorsi così, come in preda a un'indefinibile paralisi in tutto il corpo, diverse ore nella mia poltrona. Mi sentivo male come non mi ero mai sentito prima d'allora. All'improvviso mi venne però in mente la mia parte di premio. D'un tratto quei 5.000 marchi si impadronirono nella mia testa e infilai la giacca e mi incamminai verso la casa editrice Hoffmann und Campe. Fu una passeggiata magnifica, nell'aria più tonificante, ed ebbi l'impressione di vedere per la prima volta in vita mia il mondo della vera eleganza. Osservai con il massimo interesse e la massima attenzione ognuna di quelle confortevoli ville in riva alla Binnenalster. Infine giunsi alla casa editrice Hoffmann und Campe, mi feci annunciare e fui subito accolto dal direttore in persona. Quel signore mi strinse la mano, mi invitò a sedermi, aprì un cassetto della scrivania, ne prese una busta già pronta e me la porse. «Ecco l'assegno», disse. Quindi mi chiese se l'alloggio fosse di mio gradimento. Era subentrata poi una pausa, durante la quale continuai a pensare che avrei dovuto dire qualcosa di intelligente, qualcosa di filosofico, forse almeno qualcosa di sensato, ma non dissi nulla. La mia bocca non si aprì. Infine ebbi l'impressione che si fosse creata una situazione imbarazzante e subito dopo quel signore disse che dovevo andare a pranzo con lui nel cosiddetto club inglese. A mezzogiorno ci andai davvero e consumai lì con quel signore uno dei pranzi più squisiti che avessi mai consumato fino allora. Il pranzo si concluse con una generosa sorsata di Fernet Branca e poi mi ritrovai in strada sulla sponda dell'Alster e mi ero pure già congedato dal direttore della Hoffmann und Campe. Lo scopo principale del mio viaggio ad Amburgo finiva lì. Passai un'altra notte nella vecchia villa sull'Alster e poi mi trasferì a Wellingsbüttel dai miei amici. Non so più quanto rimasi da loro. «Adesso ero una celebrità», dissero i miei amici, e quando mi portavano in visita con sé dicevano ai padroni di casa «Questo austriaco che vi portiamo è adesso una celebrità». Tutta quella gente mi rese difficile separarmi da Amburgo. Arrivato a Vienna, misi subito in atto la decisione che avevo preso già nel mio viaggio di andata ad Amburgo. Spesi l'intera somma per comprarmi un'automobile. L'acquisto dell'automobile si svolse nel modo seguente. Vidi nella vetrina della concessionaria Heller, di fronte al cosiddetto Heinrichshof, in mezzo ad altre vetture di lusso, una Triumph Herald. La vettura era bianca, con la selleria in pelle rossa. Aveva il cruscotto di legno con i pomelli neri e il prezzo scritto sul cartello ammontava esattamente a 35.000 scellini, dunque 5.000 marchie. Fu la prima automobile che vidi nel mio giro di ricognizione alla ricerca di una vettura e fu anche quella che comprai. Rimasi circa mezz'ora davanti alla vetrina, non di seguito ma a più riprese, a osservare l'automobile. Era elegante, era inglese, cosa che costituiva già quasi un prerequisito e aveva esattamente le dimensioni che andavano bene per me. Infine entrai nel negozio e mi diressi verso l'automobile e le girai intorno un paio di volte e dissi che avrei comprato quell'automobile. «Sì», disse il venditore, «avrebbe fatto in modo che già nei prossimi giorni potessi disporre di un'automobile come quella». «No», dissi, «non nei prossimi giorni, ora», dissi, «subito». Pronunciai la parola «subito», così come l'ho sempre pronunciata, con decisione. «Non aspetterò qualche giorno», dissi, «non posso proprio farlo». Non addussi una ragione, mi limitai a dire che non potevo proprio e aggiunsi, «comprerò soltanto questa automobile, così com'è». Quando feci le viste di andarmene senza aver concluso l'affare, il venditore disse tutto a un tratto, «e va bene, può avere la vettura, questa è una bella vettura». Lo disse con una certa tristezza nella voce, ma aveva ragione, la vettura era bella. Io però, mi passò per la testa in quell'istante, non avevo mai guidato in vita mia un'automobile, sempre e solo pesanti camion. Avevo fatto direttamente la patente da camionista perché un tempo volevo andare in Africa a distribuire medicinali ai neri, progetto che però era andato in fumo. Guidare i camion era il presupposto indispensabile per quell'impiego in Africa. Avrei dovuto prendere servizio in Ghana, ma con la morte del manager americano sotto il quale avrei lavorato, la mia assunzione in Africa fu dapprima differita e poi del tutto cancellata. Dunque, non so nemmeno come portare la macchina fuori dal negozio, pensai. «Sì», disse ora al venditore, «affare fatto, la macchina la compro, ma me la dovete lasciare davanti al negozio, davanti alla vetrina. Verrò a prenderla in giornata». «D'accordo», disse il venditore. Firmai un contratto e versai il relativo importo. L'intero premio Julius Campe era belle andato. Mi era rimasto un poco di denaro per la benzina. Per un paio di ore percorsi in lungo e in largo il centro, esultando per il fatto di possedere un'automobile. Mi congratulavo con me stesso per il mio buon gusto. Che sarebbe stato il caso di consigliarmi con un tecnico, sia pure uno solo, per sapere se l'automobile valesse qualcosa anche nella meccanica, è un'idea che non mi era nemmeno passata per la testa. Ho un'automobile bianca, pensavo. Infine feci dietro front e tornai alla concessionaria Heller, che era una delle concessionarie più eleganti di Vienna, e quando voltai l'angolo la mia vettura era già davanti all'ingresso. Ritirai i documenti nel negozio, mi sedetti in vettura e partii. In effetti non ebbi alcuna difficoltà a guidare l'automobile, benché fosse in assoluto più facile guidare un camion che non quella piccola Triumph Herald. A questo punto andai ovviamente in Obhircher Gasse e mostrai l'automobile alla zia. Lei rimase sbalordita che per 5.000 marchi si potesse comprare un'automobile così elegante. D'altronde 5.000 marchi erano un mucchio di denaro. Naturalmente non stavo nella pelle e intrapresi il mio primo viaggio di una certa lunghezza che mi condusse dapprima in direzione nord, al di là del Danubio, e poi, siccome non ne avevo ancora abbastanza, oltre Hollandbrunn e fino a Reetz. A Reetz avevo già consumato un bel po' di carburante. Feci di nuovo benzina e tornai indietro. Era una giornata magnifica. Ma quando giunsi di nuovo nei pressi di Obhirkegasse, non me la sentii di fermarmi e scendere, e stavolta mi diressi verso est. Attraversai ancora tutta la città e poi proseguii per il Burgenland. Poco prima di Eisenstadt cominciò a imbrunire e pensai: se proseguo, fra mezz'ora sono già in Ungheria. Tornai indietro. Di dormire quella notte non se ne parlò neppure. Era una sensazione grandiosa possedere un'automobile, una per giunta inglese, bianca, con i sedili di pelle rossa e con il cruscotto di legno. E tutto questo per il mio gelo, pensai. Il giorno seguente feci con la zia una gita a Klosterneuburg e al ritorno ci fermammo anche al cimitero di Grinzing. 2 mesi più tardi, ormai mi ero abituato a possedere un'automobile e la guida della mia Herald era diventata un'abitudine, andai in Istria, sulla costa di Laurana, dove mia zia si era fermata già un paio di settimane prima. Abitammo, come già tante altre volte, a Villa Eugenia, una villa padronale del 1888, con ampi magnifici balconi e un vialetto di ghiaia che scendeva con dolci volute direttamente al mare blu. Gagarin aveva appena concluso il suo primo volo nello spazio, questo me lo ricordo ancora. La mia Herald bianca era parcheggiata accanto al portale d'ingresso. Non era un portone d'ingresso, era un portale, e di sopra, al secondo piano, io, unico occupante di 3 grandi stanze con 6 grandi finestre dietro impalpabili tende di seta che risalivano ancora all'anteguerra, scrivevo Amras. Quando ebbi finito di scrivere Amras, lo spedii subito alla mia redattrice della Insel. 4 o 5 giorni dopo la spedizione di Amras, mi alzai già alle 3 del mattino con l'incoercibile sensazione che dovevo arrampicare, uscire di casa e arrampicare, perché era una giornata luminosa e frizzante senza nemmeno una nuvola. In pantaloni e scarpe da ginnastica, con indosso solo una camiciola senza maniche, scalai le pareti rocciose del cosiddetto Monte Maggiore, oggi Učka. A metà altezza mi sdraiai all'ombra e rimasi a contemplare, molto più in basso di me, il mare su cui incrociavano le navi. Ero felice come non mai. Quando a mezzogiorno ridiscesi di corsa alla montagna, ridendo forte, sfinito dalla felicità, posso dire, ebbi di nuovo la sensazione di non voler far cambio con nessun altro uomo al mondo. A Villa Eugenia mi attendeva un telegramma. Amras eccellente, tutto a posto, era il testo. Mi cambiai, salì sulla mia automobile e andai nel centro di Fiume, l'antichissima città portuale croato-ungherese. Lì camminai su e giù per i vicoli e non mi disturbò neppure il grigiore della gente, neppure l'aria appestata da centinaia di automobili. Assorbivo tutto con grande intensità, ascoltavo tutto, respiravo tutto a pieni polmoni. Verso le 5 di sera mi rimisi in viaggio per Villa Eugenia lungo la litoranea, costeggiando i cantieri navali. Credo che cantassi. Laddove la grande scogliera prima di Abbazia si accende abbacinante nel sole della sera, una vettura svoltò da sinistra nella mia corsia, si schiantò dritto dritto contro il muso della mia automobile e lo appiattì completamente. Io stesso fui sbalzato fuori dall'automobile, ma mi rimisi subito in piedi e non sentivo dolori di sorta. Anche la vettura dello jugoslavo era completamente distrutta. Il guidatore era saltato fuori dal relitto ed era corso via urlando, seguito da una donna che continuava a gridargli dietro in italiano: «Idiota! Idiota! Idiota!» Io avevo davanti a me, in mezzo alla strada, un mucchio di lamiere accartocciate e tutto il traffico che cominciava a riversarsi dai cantieri navali era bloccato. «Quell'idiota! Idiota! Idiota!» si azzittì e io rimasi lì solo. Tutto a un tratto vidi gente urlante a correre verso di me e allora gettai uno sguardo lungo la mia persona e vidi che l'intero mio corpo era inondato di sangue. Mi ero ferito alla testa. L'emorragia era così violenta che credetti di essermi strappato via dalla testa la calotta cranica, ma continuavo a non sentire dolore. Allora un tale balzato fuori da una piccola Fiat 500 mi afferrò e mi cacciò nella sua auto. Poi fece ululare il motore e con me a bordo si lanciò in una folle corsa verso l'ospedale lungo la litoranea. Una corsa così mostruosamente folle da farmi pensare che ora sì sarebbe successo il vero grosso incidente. Durante la corsa continuai a tenermi la testa perché pensavo che colasse fino a svuotarsi. Inoltre avevo l'impressione di dover almeno scrivere su un foglio il mio nome, altrimenti una volta che sarò morto dissanguato nessuno saprà di chi si tratta, pensavo. Naturalmente non volevo nemmeno lordare del mio sangue l'auto di quell'uomo e cercavo sempre di dirigere il flusso del sangue solo su di me e fra le mie ginocchia. All'arrivo in ospedale un'infermiera mi depose subito su una lettiga e mi portò via. In un lavatoio l'infermiera mi rase metà cranio. Poi mi ritrovai in una sala operatoria ed ebbi fortuna perché il chirurgo parlava tedesco e mi fece subito in tedesco le domande essenziali, se avessi o no vomitato, eccetera. Poi mi somministrarono un anestetico, soltanto una cosiddetta anestesia locale, e mi medicarono e mi ricucirono la testa. Quella che mi era apparsa come una ferita spaventosa era stata una semplice lacerazione. Dopo 2 giorni potei tornare a Villa Eugenia. Prima avevo potuto visionare il mio relitto presso la stazione di polizia vicino all'ospedale e con mio stupore la polizia aveva redatto una precisissima ricostruzione dell'incidente. La colpa era dello jugoslavo al 100% e questo risultava anche dal verbale. Quella che aveva continuato a gridare «Idiota!» mentre lui fuggiva era la moglie, per sua sfortuna, infermiera in quell'ospedale. E come ho appreso in seguito, l'ospedale l'ha licenziata in tronco perché, invece di soccorrermi, era fuggita via con il marito. Mi dispiacque, ma non potevo farci nulla. La mia Herald era un ammasso di lamiere. Le girai attorno un paio di volte e pensai che ci avevo fatto solo 1200 chilometri. Peccato. Con un turbante bianco in testa e con mia zia e i suoi molti bagagli affrontai il viaggio di ritorno a Vienna. Neanche tanto depresso, perché in fondo, come per miracolo, ne ero uscito vivo e tuttavia molto deluso per la fine della mia felicità automobilistica. Alla concessionaria Heller mi indirizzarono un prestigioso avvocato che risiedeva nello Heinrichshof. Avrebbe seguito il mio caso con la sua abituale scrupolosità, disse l'avvocato. E la gente a cui raccontavo la mia disavventura osservava che dagli jugoslavi non avrei cavato un centesimo. Era risaputo che quelli là in casi del genere, vale a dire in simili incidenti, non pagavano mai neppure se la colpa era al 100% tutta loro. Mi irritai per aver preso quell'avvocato che ritenevo così caro. Ero furioso per la mia stupidità. Così non solo ho perso la mia Herald, ma ora mi toccherà pure pagare quell'avvocato che si è sistemato come un principe in 3 o 4 enormi stanze con vista sull'opera. Sono proprio uno stupido, mi dicevo. Non ho il minimo senso della realtà. Amras era in composizione e mi aggiravo piuttosto avvilito per la città di Vienna. Niente mi dava piacere, la mia Herald mi mancava e a un tratto ebbi di nuovo la sensazione di essere spacciato. Per certi disgraziati le disgrazie non finiscono mai, pensavo riferendomi a me stesso. Era ingiusto, ma era comprensibile. Ogni tanto a intervalli di qualche giorno o qualche settimana, mi pioveva in casa una lettera in cui l'avvocato mi assicurava, con parole sempre uguali, che stava seguendo il mio caso con la massima accuratezza. Ogni volta che arrivava una di quelle lettere, io uscivo dai gangheri. Ma ormai non avevo neanche il coraggio di andare dall'avvocato e dirgli di lasciar perdere. Temevo già l'enorme parcella. Nel Wertheimstein Park e nel casino Zögernitz leggevo intanto le bozze di Amras. Il libro è ben riuscito, romantico, l'opera di un giovane che per mesi ha letto Novalis. Dopo Gelo avevo creduto di non poter scrivere mai più nulla di nulla, ma poi al mare mi ero messo alla scrivania ed era arrivato Amras. Sempre era stato il mare a salvarmi. Bastava solo che andassi al mare ed ero salvo. Una mattina mi piove in casa un'altra di quelle lettere dell'avvocato e io stavo già per strapparla, ma il contenuto di quella lettera era diverso. «Venga nel mio ufficio», mi scriveva l'avvocato, «ho potuto liquidare il suo caso con piena soddisfazione». In effetti le assicurazioni jugoslave avevano accolto tutte le richieste del mio avvocato, si badi bene, senza porre limiti. Non solo mi fu rimborsata l'automobile, ma mi furono risarciti anche i danni morali e ricevetti pure un cosiddetto indennizzo vestiario di incredibile entità. L'avvocato, infatti, non aveva dichiarato, conformemente ai fatti, che indossavo pantaloni da 4 soldi, una camicia e dei sandali, bensì un costoso completo e la più costosa biancheria. Come naturale, lasciai l'ufficio dell'avvocato al colmo della soddisfazione. Mi comprai una nuova Herald e con quella tornai molto spesso in Jugoslavia, il paese che nella sfortuna si era dimostrato nei miei confronti tanto corretto e in effetti anche assai generoso. Tutto questo l'ho scritto perché, come si vede, è strettamente connesso al tripartito premio Julius Campe, nel più ovvio dei modi.